3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Prova di modulazione. E qua, Fufia. Hola, attenzione canale 10, prego. Tutto per certo, e beh già. Poi Marco, e allora? Eia, qui ero un attimo fa sull'uno, stavo pigiando la portante a vedere se l'antenna ce l'ha ancora, sembra che ci sia ancora. Poi spazzolando così ho sentito te. E sull'11 alfa c'è una portantina con un fischio continuo, come se fosse un, che ne so, un radiofaro, un qualcosa di controllo, boh. Io acceso adesso in questo momento. E non trovo più adesso un incontro, adesso mi sto ricominciando e mi sono liberato da ogni cosa. Ah, sì. E io non sto più entrando già perché avevamo da fare con la dentiera di mamma e poi sono stato anche poco bene. E quindi l'ultima volta che sono entrato a ascoltare un discorso era forse 3 giorni fa, sul 10, c'era Gianfranco, Giulio, poi c'era Claudio da Porto Torres, un bel discorso hanno fatto, lungo, e stavano parlando appunto delle, anche di roba di concessione che non c'è più, che si è tutelati e non si è tutelati. Poi ascoltando quella ho sentito che ancora ci sono portanti, tuttora, ne disturbano un po' tutti, quindi secondo me, come la teoria di chi l'ha detto ieri, è tutta gente entrata col Covid che ha dissotterrato carraggi, che magari aveva già antenne da 20 anni sul tetto e secondo me è gente che non entra né sul 10 né sul 23 né in PMR a parlare, però entra a mettere la portante, capito? No, io ieri nel PMR c'era un po' di gente e sono entrati, però c'è tipo se non arrivi a cosa vuol dire non mi sente, un po' così è stato, non è che mi piaccia tanto, per me è un giocato. Invece qua amicaci, qua c'hai più portata di chilometraggio, di cose, è tutto meglio, dai. Sì, c'è una corrente fresca qua a me, perché ci sono spifferi che ho lasciato passare il cavo per il ricevitore, no? E ci sono spifferi. Io sono a torso nudo. Che vabbè, mi ero andato a fare una commissione, quindi poi mi sono accaldato appena, eccetera. Sì, ogni tanto ascolto dalla camera con l'altro ricevitore, l'altro antennino, quello sulla strada, un po' di PMR, però senza troppo impegno, mi sto dedicando più alla TV, anche roba al computer. Uscendo ti dirò la verità, poco, perché non me la sento tanto. Non mi sento tanto bene, è un periodo un po' strano. Poi, a parte che quando ci sono fulmini io stacco tutto ne straccio, spina, alimentatore, antenna, tutto. Non mi fido, io come sento un tuono in zona, un tuono che si avvicina, poi lampo uguale tuono, stacco tutto, per sicurezza. No, io non ho staccato nulla, ho fatto un'imbarriata enorme anche stamattina a Cattinelli, però ha durato poco stamattina. Ha fatto un'imbarriata tipo nuvola di fattuti e poi mi ha smesso ed è venuto il sole. Infatti ho aspettato che venisse il sole, procedere già a portare il taglio e c'era troppo più, ce lo facevano la più. Eia. E poi stanotte farà tuoni e fulmini, quindi stacca tutto, antenne, ciabatte, quello che puoi staccare. Mi pare che avevano dato un'allerta meteo tra venerdì e sabato, non so se sia ancora in atto questa allerta meteo, cioè se il tempo un po' sta cambiando è meglio oppure se ci sarà casino. Io guardando internet mi dà ancora casino, tipo tuoni e fulmini tutta la notte, capito, tra venerdì e sabato, quindi meglio staccare lo staccabile. Allerta arancione c'è, l'hanno messo anche oggi al telegiornale, allerta arancione, e niente, io chiarito anche perché è venuto quello che abita in mansarda. La macchina mi ha detto di passare sul tetto, se ero salito io per controllare la terra, ho detto no, non ci sono salito, comunque sono salvo, non si sa mai che mi reggiano i boicottati. E sono andato e invece non era tutto a posto, i tirati sono a posto, li ho toccati, anche se li tira bene. No, è tutto a posto, guardate un pezzo che ha fatto, l'antenna va bene. Leia. Poi vabbè, stavo notando la media globe, no, deve sempre arrivare questa famosa Venom 5 ottavi. Quello che non avevo notato, sta arrivando anche la Venom mezz'onda, 33 euro solo, più vabbè 8 euro di spedizione, o 8 e fai 9 dai, 33 euro, mamma mia, però non vorrei che fosse troppo schifosa la qualità a me. Per avere un'antenna d'emergenza, sai cosa sono 33 euro di spedizione? Avere un'antenna mezz'onda senza radiali, senza nulla, proprio per installazioni temporanee, prove, che ne so io. Meno ci contavi quando viene? 38 euro. Però ripeto, quello che mi lascia perplesso non è tanto la lunghezza ridotta, perché è 5,80 m solo, no? C'ha più bobina alla base e meno stilo radiante, no? Però questi radiali, poi può darsi pure che sia stata progettata così apposta, cioè dei radiali corti tipo 40 cm l'uno, no? Messi leggermente piegati, no? Se guardi la foto su internet, cioè, mentre la mia, vabbè, è 6,5 m questa 5 ottavi, la Sirion, alias Midland, 6,5 m, poi c'ha però dei radialoni da 1,30 m ciascuno, cioè... Non vorrei che avessero risparmiato troppo, lì ho comunque fatto un'antenna di compromesso che rende molto meno di questa mia. Bisognerebbe provarle sullo stesso palo, con lo stesso cavo e apparecchio, capito? Cioè, mettere una, chiedere i controlli, toglierla, mettere l'altra e chiedere i controlli, però non si può fare perché è un casino. 43 euro e 72 sotto vatta. Sì, però è Sigma Eurocom, roba inglese. Guarda, sul sito di Media Globe, perché Media Globe vende su eBay anche, però su eBay, siccome lei paga delle commissioni a eBay, te la fa pagare di più. Invece se vai proprio il sito mediaglobe.it, 33 euro la mezz'onda, 38 euro la 5 ottavi. Il bello della mezz'onda è che è pulita, non ha nemmeno radialini, è lunga, mi pare, 5,35 m, così, uno stiro dritto, punto, tipo canna da pesca. Poi la resa non si sa, anche perché alla base qualcuno dice che non è riuscito a aprirla, sembra che sia tutto sigillato e tu non sai cosa c'è alla base dell'antenna già. Può esserci una normale bobina come nell'antenna mia, che ne so, potrebbe averci messo un pacchetto di resistenze, proprio una cafonata tanto per, che ne so, adattare l'impedenza, io non mi pronuncio perché non conosco le caratteristiche costruttive delle antenne, capito? Però mentre nella mia, se la bobina si dissalda, si rompe, è a vista, cioè togli il tubicino di plastica, la rifai, la risaldi, oppure la rifai nuova la bobina e poi ricopri con lo stesso materiale, lì è sigillata, o presumibilmente sigillata. Adesso tradotto dai forum inglesi e non è facile a tradurre, comunque il traduttore traduce a contusoio. E comunque funziona così, quando è più corta gli fanno la carica, più giri di carica e lo recuperano dalla carica la lunghezza dell'antenna, quindi dovrebbe performare lo stesso. Naturalmente già, io quello che penso è, che ne so, ti faccio un esempio, tu hai la, cosa hai? Oh, vabbè, adesso hai la Game Master, cosa avevi tu, la Turbo? La Turbo, no, io c'avevo la Mantova 5 Turbo. Dico, Mantova 5, diciamo 5 ottavi full size, bel diametro, bello grosso, no, il radiatore, quindi larghezza e banda notevole, un bel di radiali. dico un bel parchiometro, solo 3 linee VP, 5 no mi pare, 5, 8, non mi ricordo, insomma un bel piano di massa, mentre la mia già, vabbè, il radiatore più sottile, quindi meno larghezza di banda, c'ha già meno radiali, solo 3 radiali che, vabbè, come la BA27L potrebbe rendere leggermente meno di una mantova, adesso bisognerebbe fare prove a tavolino, però l'idea è che questa Venom renda leggermente meno di questa mia, cioè meno spendi, meno hai, è come la storia della Ringo o della Lem, che ce l'ho buttata per disperazione dopo un anno. No, la Ringo, cioè, appunto, se tu vai a vedere il forum, c'è scritto che è rispettosa, che prende umidità, è un bel di roba, basta guardare il forum e ti rendi conto di quello che dice la gente. Molti si sono lamentati da quando la LEM ha modificato il progetto originale della Ringo e l'ha accorciata, però accorciando lo stile e facendo la bobina più larga, no? Perché mi pare i giri sono sempre 3 o 2, adesso vabbè, i giri completi diciamo dovrebbero essere 3, no? Da morsetto a morsetto, però non ti ha messo le misure di riferimento come regolare lo stile. Invece la Venom ha dei segni fatti a pennarello, tu praticamente inserisci lo stilo uno dentro l'altro fino ad arrivare al segno del pennarello e stringi a morsetto, cioè hanno già, sono già predeterminate le misure, capito? Non devi andare come ho fatto io sul terrazzo di nonno a tentativi, facendo un bel di prove, poi alla fine ero riuscito anche a tararla, per dire. Lì ci sono dei segni, anche se greggi, non fate a pennarello, la regoli lì, bene o male funziona, poi la resa è quello che importa già. Un'antenna può avere anche 1,1 di stazionaria, no? Però bisogna vedere quant'è la resa. Ma io non l'ho mai provata, comunque dovrebbe essere un'antenna da via di mezzo, non sarà per forza al 100%, però solo che tu per esempio il compromesso lo accetteresti in una stazione definitiva, io no, cioè per quanto leggera, anche questa è, diciamo, un'antenna secondo me che non rende quanto la mantova, però era, diciamo, l'antenna più leggera che non fosse però troppo risicata, tipo Ringo, perché la Ringo veramente era un scandalo. Tu conta una cosa già, liscio con i soliti 4 watt, essendo di Porto Torres, lì dove era lui, con la Ringo non mi sentiva nel QRM, cioè non mi sentiva, con questa invece mi sentiva. Quindi penso che almeno uno o due Santiago anche li abbia guadagnati. Cioè con la Ringo non arrivavo a Sandro e con la Energy arrivavo a Sandro. Capito? Per farla breve, no? Sì. No, ma quell'antenna lì io non tanto che va bene. Sarà leggera di materiale, ma è la cosa più tranquilla, perché la mantova un materiale molto grosso, molto pesante, quando la finisce è utilizzata. Se ti legati con l'antenna per ti danno qui, tu ti dirai anche se cade questa pantano, però in maniera più leggera. Ehi, se finisce su macchine, a meno che non cada di punta, che non cada dal palazzo di punta e infilza qualche passante, te lo fa a spiedino, te lo fa. Tipo arco. Ehi, insomma, comunque il prezzo era talmente miserabile di queste antenne che a costo di tenerla per usi futuri, di rivenderla dopo, mi sarei fatto le prove sul terrazzo di nonno, piazzata su un palo da 2 metri con quel solito supporto che sei tu, tarata, provate le stazionarie, certo su questo tetto non la posso provare perché sai qua se non devi fare lavori magari non voglio stare a chiedere andare avanti e indietro, e qua è molto più in alto, mi conta che il terrazzo di nonno, sai quanto è più basso? Sono rispetto all'antenna dove adesso sono 1, 2, 3 almeno 3 piani in meno, se non 4. E perché è a scendere qua, capito? C'è via Gabino Matta che scende a piombo, in discesa. E vabbè, comunque le prove comparative andrebbero fatte così. volta una, messa l'altra, senza dire niente, perché se tu poi vai a dire sto usando, che ne so, la Mantova, sto usando la Ringo o la Venom, magari c'è qualche malizioso alla Mantova, gli regala qualche segnale in più, no, qualche dB in più. Vabbè, comunque quella lì va bene, ma c'è il piede del vento, l'unico problema che c'è è che qua si rompe il vento, no? Qua ieri c'erano delle raffiche, cazzo, sempre sto peso che abbaiamo, sento questo rumore, sono una cazzo, sono vicino al corrente, e non sai cos'era il vento, ma ne ha staccato l'antenna, la tenda dall'attacco, dai, dove si mette, da quel filino lì, e la tenda stava volando, cazzo, si sbatte qua tutte le spalle. Poi la questione è durata, Gianni. Molti che l'hanno recensita hanno detto che questa Venom, come dire, è proprio lo spessore del radiatore, no? È abbastanza sottile. Però io, non avendola sotto mano, non ti posso dire se è più sottile, non il diametro, è proprio lo spessore della parete metallica che compone i tubi, se sia più sottile addirittura della Energy. Quello bisognerebbe avere i tubi sotto mano di tutte e due le antenne e vedere. Perché prima o poi, cioè io non so se la Energy duri 20 anni come antenna. Diciamo è un pregio e un difetto che abbia quel tubicino di plastica alla base, no? Quello trasparente, semi-trasparente, no? Perché se da una parte ti permette di sfilarlo, no? Smontando l'antenna e rifargli la bobina o saldarla, quello si potrebbe anche fessurare, spaccare, fare in pezzi tra anni di caldo estremo e freddo, e rompersi, no? E quindi l'acqua, la pioggia andrebbe direttamente sulla bobina, chi lo sa quello, boh. È vero, il materiale si misura durante il tempo, se poi proprio vuoi sgrottare, lo devi fare la facciata di vulcanizzante sopra, per cui sì, tutti i punti chiave. Poi una cosa molto importante è isolarla bene. Nella Ringo era stato fatto un errore, siccome c'erano quelle fascette maledette, no? Che sporgono un po', no? Invece la Energy ha le viti, ha due viti per ogni connessione tra due stili, no? E lì, vabbè, c'erano queste fascette molto sporgenti, per cui andando a nastrare è rimasto un millimetro scoperto dalla fascetta. Beh, l'acqua è entrata da lì con la Ringo, è entrata tra i due stili e praticamente c'era tutta una bottiglia schifosa, era tra il nero, color nero, oppure mucillagine, sembrava una cosa tipo mucillagine biancastra e in più ruggine, perché la fascetta che avevo messo io in acciaio inox comprata a Brico Center, forse tanto inox non era, perché io ho trovato ruggine, c'era tutto un impasto di schifo, di ossido, di ruggine che si era infilata tra uno stile e l'altro e praticamente non conduceva più, già, in poche parole. Bisogna vulcanizzarla bene, bisogna cominciare, non dove c'è l'attacco, bisogna cominciare un bel pochino, di modo che non abbia modo di entrare in acqua. Prima, almeno 2 cm prima, qui nastrano tutto qua, come fastidio. Noi l'abbiamo lasciata senza paura di spreco, anche le fascette abbiamo lasciato. Veglia. Sì, anche quando l'abbiamo piazzata qui, tutti giunti degli elementi nastrati bene. Poi anche dove c'è lo stube di taratura in punta, dove c'è quella vitina, le vitine a brugola per spingere, no? Lo stesso lì nastrato in modo che non entrasse acqua da lì. Ovviamente abbiamo lasciato il foro, la base libero, perché lì la condensa interna si forma sempre comunque e deve essere libero di scaricare dal foro, dal forellino. Il forellino ovviamente è prima della bobina, proprio alla base dello stilo di alluminio. E poi anche ho isolato molto molto bene, tra dove finisce lo stilo e dove iniziava quel tubicino di plastica, perché lì era un punto debole dove poteva entrare l'acqua, tutto nastrato, e non solo, ma anche nastrato il PL, stretto bene e nastrato tutto proprio dal resto di filettatura libera che c'era fino alla... arrivare al nastro, in modo che non passasse una goccia d'acqua, perché se entra acqua nel cavo è finita. Sì, io ho pensato di con l'acqua per piede, non fa problema. Piede lo nastrato praticamente dall'interno verso l'esterno. Sono tutti nastrato insolare. Abbiamo fatto bene quel lavoro. Non ho nastrato io Luca e Claudio. Allora, per alzarla, siccome io con le altezze non vado d'accordo, anche se qui si lavori bene, questo è terrazzo, e c'è il gabbiotto centrale e pomponio, e già ci avevo le mani in testa, perché lui come si arriva sul gabbiotto, no? Sai, può venire un capogiro, una cosa, perché poi il gabbiotto ha un bordo in discesa che va verso il bordo del palazzo, cioè è una specie di scivolo lì, metti che ti venga un capogiro, infatti ho detto, oh mamma mia, attenta, Tore, tieniti al palo, cioè, le mani in testa ci avevo, e lui, non ti preoccupare. Allora, di nastrare me ne sono occupato io bene, montaggio, nastrare, soprattutto nastrare l'ho fatto io personalmente. E lui, diciamo, la salita, come si dice in sassarese, no? La issata lì, io sul gabbiotto col cavolo ci salgo, non proprio è più forte di me. Anche io col gabbiotto dell'ascensore che c'è la discesa così dove ci, secondo dove ti giri è variegioso, ti porta verso giù, perché ehi, aspetta, forse c'è un break, avanti. Qualcuno ha parlato sotto, avete ripreso in due. Mi era sembrato Manuele, ma non sono sicuro. Manuele, sì. Sì, buonasera, Ciao Gianni, ciao Marcolino, a te Marcolino. Sì, ciao Manuele, dopo un bel po' di giorni. Caso di forza maggiore, io un punto era un po' incasinato, abbastanza incasinato, di salute e non solo, e anche di commissioni varie. In compagnia di Gianni mi stavamo parlando di antenne, tanto per cambiare, di installazioni. Sì, Gianni, la differenza è che qua non c'è ascensore, cioè il gabbiotto è per, come dire, vabbè, c'è, perché... Cioè, come esci dal terrazzo ci vuole l'altezza giusta, cioè non c'è bottola. E giustamente la mia antenna è dietro le antenne TV, diciamo di tre quarti, non proprio dietro, dipende da quale antenna. E poi è più in alto delle antenne TV, giustamente. Comunque qua tutto tranquillo, nessuno si è lamentato. Quella volta della... ti ricordi, no? Già, quello era uno scherzo, secondo me. Perché poi è... di punto in bianco non l'hanno più fatto. Quello del potenzio. Sì, ma fa fare le figure di cacca, anche perché magari andavo a protestare, no, se era vero. Dice, questo usa quelle cose lì, non le può usare. Si sarebbero messi a ridere. E tu, Manuel, tutto a posto, come stai? Io sono stato male un po' anche di schiena. Male. Dolori tra la... tipo... sicuramente c'ho ernia del disco. Sì, sicuramente. Guarda, io non ti dico male, Marco. Sto facendo punture da ieri, perché non ce la facevo più a sopportare questo dolore qua. Sto facendo punture da ieri e ti dico che sto iniziando già a stare meglio, a camminare, perché sono un anno così che non lo sai, che le punture le temo e quindi non le facevo. Mi sono deciso di farmele e ti dico che, guarda, sto migliorando. Adesso stasera ne devo fare un'altra fino a finire la cosa. I 5 giorni, dai, a te Marco. Beh, poi ti volevo chiedere una cosa, tu avevi provato con Tonino, eravate andati a fare agopuntura, ne stavate parlando in radio una volta, beh, nuda, non c'era uscito niente di buono. sì, cazzo, sono stato indotturato e poi mi sono uscito come prima. Niente da fare, dai, perché dice che qualcuno fa, ma secondo me quella è autosuggestione, lo sai, certi credono talmente in quel tipo di cura che cioè la mente, boh, dice la mente è talmente potente che può anche autoconvincere il corpo a non sentire più il dolore, ma e non ce n'è, antidolorifici ci vogliono altro che iniezioni, brufen, occhi, chi più ne ha più ne metta, come dice Rocco Siffredi, riprendi già. Ciao Manuele, non è questione di antidolorifici, l'ha già fatto 4 scatole di occhi, prima di operarmi ho preso 4 scatole di occhi, ti dirò che poi mi sono assuefatto e non mi faceva più nulla, manco l'occhi, immagina. Sì, se ti abitui a un tipo di antidolorifico c'è la sua fazione e devi usare dosi sempre più alte. E guarda dottor House, no? Poi lui usa il Vicodin, nulla ha mai detto mi, è un oppiaceo, è come droga, più dei nostri secondo me. Oh via, sicura gallare dolore. Ma bisogna decidersi, no? Ma se è da operare opera le bacca, così non si piace soffrire, così ho fatto io. Ci stavo pensando a ripensare, ho provato mille cure, prima mi hanno curato per l'oncoscialgia, mi hanno fatto fare l'iniezione, la prima volta mi sono mi è passato dopo, poi mi è ritornato, e la seconda volta, malgrado abbia fatto l'iniezione, non mi ha fatto niente. E da lì allora ho cominciato a fare ecografia, ho fatto l'attacco eccetera eccetera, e da lì hanno scoperto, dalla risonanza magnetica hanno scoperto che non avevo veramente, signore, sono queste da operare, signor, lo dice da operare, ce l'ha consumato il freno, ci ha proprio quadrato. No, io sono andato, ho fatto la visita lì al Palazzo Rosa l'altro giorno. Ha guardato il tutto, il dottore Moccarit, una cosa del genere, mi ha detto guarda, secondo lei non è operabile, deve fare queste cure qua, e in pratica devo calare il peso e fare queste cure qui con l'elettro, ti mettono degli aghi e ti fanno delle scosse per vedere se reagisce il muscolo, ma i muscoli vanno bene perché cammino sento la no, se non c'avevo muscolo cadevo per terra, non mi reggio i bambini se non c'avevo muscoli nelle gambe. E mi fa il dottore provi a camminare, a mettersi quei talloni, ho provato, sì tutto bene. E comunque da operare non è da operare, deve fare solo questi passaggi qua, fare punture, montare muscoli, e infatti da ieri ho iniziato a farne una, so già un po' meglio. Quella cura che stai dicendo si chiama applicazioni elettriche, si fanno molto bene, quindi praticamente stimolano la camminata, stimolano i muscoli eccetera eccetera, però vedi ti hanno detto di fare muscoli con la roba lì e quella roba lì fa bene a una cosa e fa male all'altra, perché allo stomaco fanno male quelle cose lì, anche i lupi fa male, gli altri dolorifici fanno male, ti bucano lo stomaco quelle cose lì, ti fanno bene per una cosa e poi ti fanno male per l'altra, non sembra che a pesci di già. Cosa ne so, comunque adesso vediamo, comunque adesso devo chiamare il gruppo, torna perché ho chiamato ieri e fa per il momento qui a Sassari, lì è residente a Sassari, ho fatto certo che sono residente a Sassari, per il momento qui a Sassari non abbiamo niente, deve chiamare ogni giorno al gruppo per vedere se si libera qualcosa, dimmi tu, vai Marco. Eia, nel frattempo io mi sono messo la maglia perché qua, vi spiego, io non ho voluto bucare il muro, no, per il cavo del ricevitore, no, il cavo dell'antenna, quindi devo lasciare l'antenna socchiusa, no, l'ho bloccata la bella e meglio, ma stanno entrando tanti quegli spifferi e sta aumentando il vento pure me, quindi adesso mi scusate un attimo, io stacco il ricevitore, lo spengo. il cavo lo metto fuori e chiudo la finestra, perché qua è un macello, dai, troppa corrente sta venendo. È anche fresca, devo dire, finalmente. Copiato, o me ne è scesa l'antenna? Me ne è scesa l'antenna? Non ho sentito risposta, però ho detto magari il vento ne ha fatto volare l'antenna. Speriamo, speriamo. Cazzo, a mia, se ne va l'antenna, cazzo, se ne va che terrazzo. Sì, va bene, va bene, va bene. È arrivato l'inverno, ci voleva. Cambiato radio, Marco. Cambiato radio, un attimo già che sto chiudendo la finestra, sto togliendo tutti i legacci e la chiudo del tutto. Provo un po', vediamo, fammelo orecchiare. Questo è l'Intec, stazione base. KK, la ex di Emanuele. Ah, è buono, bella la modulazione. A me piace molto il tuo effetto presenza nelle modulazioni già, senza timbriche metalliche o leggermente ballate, cioè non mi piace sentire troppo le timbriche dei microfoni, cioè la voce deve essere naturale, come effetto presenza, una volta si diceva così. E qua ti volevo dire, ma tu l'apparecchio che esce più cupo, ne hai uno che esce meno brillante di altri, che esce un po' cupo? Era il Cobra, ma qui l'avevo cambiato la capsula, l'avevo sistemato, non è più cupo, adesso con la capsula nuova non esce più cupo, capito? Sai perché? Io ci ho inutilizzato quel famoso Astatic da Palmo, che non è rodevole, è quello che ha la griglia metallica tonda. Al 3009 è troppo acuto, però se c'è un apparato che di suo esce corposo, con toni bassi, può darsi pure che gliela corregga quel troppo effetto acuto che ha. Tanto non lo uso, io ce lo posso anche buttare. L'unica cosa è che c'è una vittina, secondo me quella non era roba nuova, arrivato dall'America quella era roba già... C'è una vittina che non stringe, quindi quando uno cambia la batteria, perché devi svitare le viti, devi aprire il mic proprio, basta mettere una micro goccia di attack a un angolino del mic, capito? Poi quando dopo 2 anni si cambia batteria, si fa saltare la gocciolina di attack, ma micro, una cosa a punta di uno spillo. Ma non ha l'attacco, si è rotto dove avvita? Come si è rotto dove avvita? La vite, no, le viti che chiudono il mic, ce n'è una che gira a vuoto, quindi la filettatura di una vite si è spanata, tutto lì, però poi le altre a chiudere chiudono e voglia. Dammelo che lo provo, lo schiatta coccia. Allora, il Cobra ha la stessa piedinatura di questo e del Galaxy, giusto? Mi pare di ricordare. È già pronto allora, c'hai già la piedinatura giusta. È il Cobra quello che usciva più cupo, mi sa che sia quello lì, perché gli altri escono tutti abbastanza bene. Il Cobra è che usciva un po' più cupo degli altri, dammelo che lo provo. Mi dici quanto ti devo dare, se va bene te lo prendo. Beh, riprendete un attimo, ancora non ho chiuso la finestra, un istante. Dammi la risposta pure. Avanti. Ginko, ho visto l'antenna tua che sbucava dal tetto l'altro giorno passato. E quale? La 50? No, quella lunga come la mia, dai, quella tipo Game Master, quella lì. Ma tu l'hai fatta partire da dove? Da terra e arriva fino al tetto, così? Ah, ma non si vede neanche dal tetto. Allora, io venendo dalla parte di Gio Maria verso di te, ho visto questa antenna lunga, io penso che sia la tua. Ma da dove? Dalle scuole? No. Lo sai dove abita Gio Maria? Ecco, di fronte, praticamente io stavo venendo dalla parte di Gio Maria verso casa tua, ed ho visto questa antenna che sbuccava dal tetto. Dal tetto, in terra, che dal tetto? Allora non è la tua quella lì? No, la mia è nel giardino, come fa a sbucare dal tetto? E infatti quello che ho detto, se non la butto un tubo bel lungo, e infatti ho detto quello, mi sembrava la tua, perché la zona è quella. Posso, io a Terni lì vicino non ce n'è, c'è quella di Gian Maria, la mia e basta, è un'altra che non modula più. E allora la duia, la duia, magari si vede, da un punto si vede. Non lo so, un attimo che mi assento un secondo. Cappa. Avanti, Marco Conno, Conno, Conno. Eia, allora ce l'ho qua, il D-104 M6B. Sì, però gli americani si perdono in queste cavolate. Cioè, non hanno fatto uno sportellino per cambiare la batteria. Cioè, devi svitare le quattro viti, aprire il mic, mettere la batteria, che poi non è comodissimo nemmeno metterla. Allora, per quello bisogna usare o Duracell o Energizer. C'è una batteria che duri il più possibile, in modo da aprirlo il meno possibile. Dentro credo che non ce ne sia batteria. Dall'aspetto sembra nuovo, però mi dispiace, ma tutti mi dicevano è cupo, è metallico, ma è acuto, è metallico. È... Siccome questo baracchino esce già di suo bilanciato con modulazione, qua non va bene. Ci vuole un apparecchio che esca tipo cupo o con toni bassi, forse riesce a bilanciare la modulazione. Non trovo nemmeno il cacciavite, porca miseria. Ah, Millo, trovato, trovato. Voglio vedere se c'è la pila dentro. E intanto attacco il Cobra, così tu lo senti e mi dici se è più cupo degli altri. Lì adesso ho cambiato la capo, sono penso che vada lì. Però già, dimmi una cosa, adesso tu non sei limpido limpido, ma hai attaccato qualcosa? No, adesso no. Ok, no, le prove facciamo sempre da liscio per evitare saturazioni, no? No, adesso io sono liscio, sono esattamente con 3 watt. Ok. Adesso provo a attaccare il Cobra, così mi dici se così cominci tu, io non me ne rendo conto magari. Eia, dai, allora qua stacco il cavo. Meno male che ho chiuso, porca miseria. Tirava un bel di aria. Riprendi, Emanuele. Mi rientra pure. Ecco qua. Questo qua è il Cobra, Marco. Come va? No, bene. Io certe volte l'ho sentito più... Non dico cupo, perché cupo sarebbe come una cosa barattolosa, tipo, fammelo sentire ancora. Con più bassi l'hai sentito probabilmente, così è. Sì, esatto, con più bassi, non cupo, però cupo è quello bu, no, quando esce proprio tipo tamburlana, no, assolutamente. Quello per quanto avesse bassi, comunque andava, poi gli avevi già fatto quella cosina. Gatta, guarda, questo qua è ZG, perché usciva cupo col, se ti ricordi bene, col Frox, quello che mi avvi dato più sempre. Che poi ho cambiato la capsula eccetera, però ci va cupo lo stesso. Invece con questo qua della ZG secondo me va meglio, non so se poi tu mi ascolti bene o no. Sì, bene, ma ti volevo chiedere cos'è un da palmo della ZG, cos'è l'M93 o 95? M93 è quello che gli avevo verniciato, te l'ho fatto vedere anche, non te lo ricordi mai. Sì, aspetta che ci sono i radiomattori, abbasso il volume, anzi elimino il canale della scansione. Allora, a sentirlo non sembra nemmeno un M93, perché l'M93 ha leggermente toni medio-alti. Per esempio il Profeta lo usa sul quel... che apparecchio era? Quello frequenzimetro, vabbè, lui è più acuto. Qua è più bilanciata la modulazione, qua è più fedele e quindi sai, questo che esce molto acuto magari ancora si può recuperare, e tanto non me ne posso nulla, c'è il cassonetto, no, io non voglio nulla, te lo prendi e te lo usi, se funziona bene, se non lo vendi lo distruggi, puoi recuperare la capsula ceramica che comunque che poi è enorme, non so dove si può mettere. Ma lo voglio provare, ce l'aveva quel microfono lì, ce l'aveva Tulipano di Porto Torres, ce l'aveva messo sul sull'S9 e andava bene, ce l'aveva in macchina, infatti ce l'ha avuto, ce l'ho messo in pinta, ce l'aveva in macchina sull'S9, però lì andava bene. Stavo pensando, un problema è però, cioè se io, anche se avessi una batteria disponibile, cioè se lo metto qui c'è un altro problema, il problema collo di bottiglia, perché questo è il trimmer della M chiuso, quindi peggiorerebbe già. Forse questo potrebbe rendere sull'intake il 150, dovrebbe essere più basso di Tony quello come modulatore. Provare a tentare un noce, adesso lo apro, vediamo comunque. E se ho anche una batteria da 9 sto pensando. Poi quando lo apri guarda se dove aggancia la batteria è rotto il petto, perché probabilmente la batteria aggancia la vite, quella che mi hai detto che è spanata, può darsi che non sia la vite spanata, ma che sia dove aggancia che si è spaccato, capito? Sì, secondo me la vite, la vita è integra, e la sede, siccome è a vita sulla plastica, no? E quindi lì, ecco perché ho detto io, secondo me questi, io sono ordinato dall'America, no? Quindi non è garanzia. Magari sono di seconda scelta, che nuovo era nuovo, nuovo era proprio con la scatola, ho detto balle, però non aveva un minimo graffio, era proprio intonso. Però non, cioè se questi sono gli astatti, che mi dispiace, ma io ci rinuncio volentieri. Belli erano quelli di una volta, ce n'era uno a Palmo che aveva non solo il controllo dell'amplificazione, ma anche la regolazione del tono. Da Palmo è quello della Lambiu, e beh, introvabile, perché è uscito di produzione da parecchio. E anche se lo trovi te lo fanno pagare col rene, te lo fanno pagare, capito? Io ho avuto il Real Devi e non mi è piaciuto, troppi acuti mi dicevano, pochi bassi, proprio aspettava i bassi e aveva tutto acuto, ma dice che la prerogativa delle capsule ceramiche è questa, non c'è niente da fare, gli americani la apprezzano perché ha molti acuti. Sì, però gli americani però sono andati a dire che gli ZG da tavolo escono notoriamente malissimo, capito? Proprio per niente, perché tu lo ZG con cosa lo usi? Anche col Galaxy è un bijou. No, lo uso col 3009, quello di quello della ZG, esce ben bene. Vabbè, io l'ho modificato anche, ho fatto il ponte, eccetera. Anche se poi non c'è bisogno, perché io l'ho provato a 10 e già tendeva ad assordare le persone, a che pro allora? Forse guadagna come pienezza di timbrica, quello sì, magari non tanto l'amplificazione, però con la modifica guadagna come pienezza di timbrica, proprio la senti piena. Poi la puoi abbassare un po' naturalmente l'amplificazione. Allora, vediamo un po'. Io di ZG c'è una parte e basta, perché la capsula l'ho cambiata, ho fatto il ponte nel circuitino e diciamo che c'ha il circuito, e basta. Perché poi il resto, la timbrica della voce è diversa perché ho cambiato la capsula, le ho messo quella di quelle verdi, di quelle da citofono. Aspetta, la vite dov'è? Quattro ce n'erano già partite. Mamma mia, non puoi fare niente qua, porco. Aspetta che abbasso il volume. Ecco. Curire. Lui è sopra scappellato. Buonasera. Buonasera anche a lei. E qua il buon vento, qua il buon vento, che era una vita che non si sentiva. Sì, a voglia vento, no, che. Buonasera. Una vita, vabbè, non è una vita proprio che non mi senti, C'è anche la batteria, però 2014, ciao Antonè, sarà più che scarica. Guarda, se ho una batteria ricaricabile, la provo con quella. Lo vuoi vedere come è fatto dentro? Mandami la foto. Ciao Antonio, riprendi. Sì, ciao Marco, saluto anche a te, ben sentito. Io ho passato a trovarmi un cadavere che non vedevo un po' di tempo, almeno una quindicina d'anni. Vi chiedo di salutarvi tutti. Andrea Maricone di Ussi. Ah, grazie. Anche mi ha mandato un messaggio, come si chiama? Ah, adesso non me ne ricordo. Fabio ha detto di salutarvi tutti cordialmente. Ah, è già lì caldo. Ciao caco. Cuomane, è meglio. Beh, allora Lucrezia, come andiamo? Come andiamo? L'ho ritirato il dog? No, no, ancora no. Quanto lo dà? Lucrezia c'è. Devo finirmi dei lavoretti già, capite? Sennò ci ho messo in piedi un casino. Ti vuoi liberare un po', dai. Vabbè, Michele lo dia. Si lo vede da qui, non la c'è più. Luca, migliorato il segnale. Ciao Marco, io? Sembrava più forte, certe volte scendevi sotto il 7, oggi sei 8 e 3 quarti, dai. C'è il vento, sarà il vento. Ah, il vento che spinge le onde più velocemente. Ma io Marco, attacca che voglio sentire. Ciao Luca, ma vado. Salutami a Fabio, già, che vabbè, gli ho mandato ieri un messaggio. Che c'era uno che stava cercando l'apparecchio che lui ha comprato a Stefano. Gli ho mandato il link, gli ho mandato così se lo deve vendere. Se lo vende subito. Deve essere qualcuno che è proprio innamorato di quell'apparecchio lì. Andà bene, andà bene. Che tipo di apparecchio è? Quello grande, stazione base, quello che gli aveva venduto Stefano. Come si chiamava? Graham. Mi sembra di sì. Ogni tanto se ne scende la potenza a zero, mi sembra che da quando non lo sto più usando. Devo dargli un colpetto e riparte. Comunque Marco, pare che vai un elicottero, ragazzi. Che avvento, eh. Un po' più bassi, lo sa. Ma è un elicottero che... Veramente è cinese della rimettatore, fa un bel casino. Così, va bene, va bene. Buonasera a tutti, buon coaccio. Ciao Claudio, se vuoi entrare siamo... Tu sei Santiago Nova, come mai? Senza capo, sì. Io. Tu? Hola. Santiago Nova mi stai arrivando. 9, poco più di 9. Mancano altre 15 di B. Cosa ti è successo? Sto usando il Cobra che esce con 3 watt. Oltre 9 più 20 qua Claudio. Tra 9,20 e 9,15. Qua sembra tutto normale. Perché tu c'è un baracchino che segna sempre gli stessi segnali. Io col K me ne accorgo. Vabbè, comunque. Se c'ha 3 watt può essere quello. Mantenitevi antenne stanotte, anzi, da domani, da stanotte è tardi sino a domani. 100-110 km/h di maestrale, già sta iniziando a salire adesso. Io temo i fulmini, porca miseria. Non ce n'è fulmine, no. Sembra solare. Non ce n'è fulmine, no. C'è solo un vento di maestrale, te l'ho detto, oltre 100 km/h. Questo è il bollettino meteo della prefettura di Sassari, quindi mantenetevi le antenne. Che ha servito una più di noi? Mamma è un cazzo, mi va di antenne. Nel VC le antenne montate come la mia. Alla grande, alla grande. Io ho un tubo d'acqua da 2 metri, Gianni, non la temo il vento io. Non ne ho bisogno di tubi. Tubo d'acqua da 2 pollici, quindi fate il conto. Assolutamente non mi fa niente, ci sono direttive, quindi che problema c'è? È perché ha antenne piazzate a culo di scimmia. Un messaggio di Varami allora, tanto è di Varami. Figurati la mia. Va bene, dai, comunque, divertitevi, dai, me ne passo il PMR, ciao. Lui, sono lì con Graziano, ciao. Io ho messo un palo idraulico con il coso. Una brittella collegata al filo di ottone, poi ho messo una cadarella e una tapparella dietro la cornice. Il pollone non l'hai messo? fatto un bollone, sì, un bollone ho messo, e poi ho fatto un tiro di coso e qua qua. E vabbè, dopo, avevo già ripianto meno come ti ha fatto. Non offendere a Fabrizio, l'ha piazzato lui, cioè, cazzo, ci siamo messi a fondi da 80. Dai, ci sentiamo Marco, riprendi e alle prossime, me ne passo in PMR, ciao ciao. Cazzo. Vola a questi Grecca, avanti Marco, dai. Riprendi il tuo, fai girare, c'è anche il 5, posso rientrare. Ciao Claudio, allora test collo di bottiglia, distanza dal mic 20 cm, non conosco le condizioni della batteria ma presumo che sia parzialmente scarica se non di brutto, così parlo da vicino, 3 dita dal mic, 20 cm dal mic, tutto il braccio dal mic, senti come la timbrica? Ecco, anche il cesso tirato c'è. Insomma, questo qua è amplificato. Sì, sì, però la batteria già, l'ho messo a 10. L'ho messo a 10 ma non conosco le condizioni della batteria già. Conta una cosa, che comunque l'apparecchio dentro è chiuso. Cioè il 3009 è chiuso dentro, non c'hai l'apertura del trimmer, capito? Bisognerebbe provarlo con un apparecchio aperto. Ah, capito, ma non va malissimo, diciamo che è un po' così la radio, non è piena, è un po' acuta. Poi conta che questo dovrebbe essere la cancellazione di rumore, quindi in teoria se io mi allontano troppo non vedo i picchi. Guarda, potrei parlare 10 cm tagliando la testa al toro, però picchi pochi ne vedo, però ricordati, è l'apparecchio che non spinge. Guarda, se trovo una batteria te lo faccio sentire. Luca, riprendi? O chi c'è rimasto qua? A Pomponio? Frecche? Mimì, Gianfranco che c'ha l'orecchio clinico. Gianfranco, è abbastanza brutta la modulazione, sì? Non mi sembra la tua, ho fatto un po' fatica a riconoscerti infatti. È un pasticcio di Astatic, quelli moderni, no, quello con la griglia tonda metallica cromata, K, batteria da, sto cercando la batteria carica, dai riprendete voi. Chi mi dice come sto uscendo io invece, non di segnale, che non è importante, ma di radio più che altro, che ho messo un microfono che è arrivato poco fa. Se non sbaglio c'è anche Gianni, è possibile? Ci sono. C'è qualche fischio, mi ha sembrato di ascoltare. Com'è, sempre identica la voce o è cambiato qualcosa? Prova! 5, 4, 3, 2, 1, 0, 7. Sentirai dei rumori di fischi, ma c'è una metà tomba d'aria qua. Sì, si sentono i fischi, è vero. No, sta uscendo bene, dai. 6925 il segnale va bene. È poco o troppo, cioè o meglio, aspetta, è amplificata molto, poco o è ottimale? No, va bene, è ottimale, dai. Molto bene. È un bel segnale. La radio che è bassa, boh, io a te non ti ho mai sentito con una radio bella performante, sempre con radio molto, molto diciamo tranquilla, dai. Sono io che parlo tranquillo, però gli strumenti dicono tutta un'altra storia, capito? Però sono troppo energetici, anche se non... Ma diavolo funziona, lo sto toccando. No, sicuramente che l'apparato è nuovo, in attesa che la prossima settimana mi bruci anche questo, questo attrezzo. Nel frattempo lo sto usando. Sì, vediamo un po', è esagerato, funziona troppo. Ma non lo vedo questi fischi, sta facendo fischiare l'antenna. Sì, se vede l'antenna ti metti a piangere. Vediamo, no, ancora è attaccata, però sì, nel vento, guarda, figurati, e se fosse, tu guarda l'orologio a mezzogiorno, attualmente questa antenna è intorno alle 10, quindi immaginati che inclinazione ha, un altro po' esco in polarizzazione orizzontale, è fortissimo qua. Me l'ha detto che faceva vento forte, dai. Ma sei rimasto a solo, senti? Si sente, sta fischiando. Sembra la sirena, per carità. Sei solo? Cioè Marco dove è andato a far colazione? C'è Marco, c'è Luca, c'era Gico, non so se puoi andare in PMR. Gico, ci sei ancora? In PMR. Luca, avanti. Aspetta che se riesco a togliere sta batteriaccia, c'è l'M95, dovrebbe essere più carica di questa, la metto qui. E poi ho messo l'Intec 150 che è più basso di Tony e vediamo come va lì. Manuele c'è qua, Manuele. Gianfra. Manuele. Ciao Claudio. C'è qualcuno che chiama però non c'è quasi di radio. Ma Manuele c'è qua, buonasera. Era qua, l'ho chiamato, si deve essere spostato, non so se è in PMR. No, non c'è neanche in PMR, va bene, ce lo cerco io, ciao. Ciao. Gianfra, come sta arrivando di segnale? A me sembra strano, onestamente, non so cosa stai usando, perché non è forte la radio, però è larga, larghissima come impronta, cioè da apparato c'è una metratura di spettro, ti vedo larghissimo, quindi è strano. Ma sei tu che hai risposto, perché ora quasi c'è rumore ma non radio. Mi coso mi. Ecco Eugenio. Manuele, se sei tu, si sente come un... si sentono come delle scariche, ma non si capisce la voce, se sei tu. Gianni, ma... Beh, Eugenio, a trabacco sei. Sì, ti ascolto discretamente, dai. Com'è questa modulazione? Molto brutta? È una static. Ehi, Gianfra, praticamente ma chi era? Gianni che sta facendo scariche? Sì, non erano scariche, era come se avesse collegato il polo del microfono praticamente, no? Che uscisse con una portante rumorosa. Infatti tu lo stai confondendo per un altro. È una cosa un po' strana, forse qualche soldatura a sé. Gianni, ritorna avanti, vediamo un po'. Ehi, dai, adesso attacca il tuo altro microfono, guarda se esco qua. Luca! Sì, perfetto. Beh, grazie. Alessi! Benissimo! Cato grazie, sono sul 23 io mi. Ciao Eugenio, ciao! Ciao Eugenio! Claudio, qua! Sul 23 sono! Sono riuscito a recuperare una batteria presumibilmente carica. Dovrei provare a mettere la lingua tra i due poli, quelle da 9, vedere quanto mi fa male per capire se è carica. Se ne volete ne presto una di quelle al litio per fare quell'esperimento. Questa com'è se di radio, questa del Cobra? Già, io ti farei sentire anche così, non c'è neanche bisogno di controllo. Però non mi ricordo come si la funzione di rimando della voce. Però rispetto a prima è sicuramente molto meglio. Io apro la batteria scarica. Test 1, 2, 3, credo che più di tanto non si possa fare con questo mic. Già, c'è il collo di bottiglia dell'apparato, ripeto, adesso provo l'Intec, sull'Intec.